YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, buonasera, bentornati. 17:06, vedo un orologio, due orologi, tre orologi. Siamo in diretta e non siamo in diretta da Radio 24, siamo in diretta, no, da Cibus, dal padiglione di Cibus dentro Expo. L'hanno fatto tanti colleghi durante questa settimana a Radio 24 e non capisco perché Daniele noi no. No, anche perché tu avevi detto che saresti venuta a novembre, il primo di novembre. È vero, io ho detto no. Invece io Expo vengo. Ma sai che questo padiglione qua è molto bello, hai visto? Ma è bello, è un viaggio nell'Italia attraverso i prodotti di Federalimentari, le nostre aziende, ed è lunghissimo, ti dà un'impressione di quanto in Italia ci sia di bello e di buono. E infatti io ti aspettavo insieme. Io ho detto, io sono arrivata chissà dove, sì, tu mi hai risposto è un che po' sta... casa mia, sì, sì. Io invece mia. Io stavo già bevendo, però vabbè, non si può dire. Anch'io, non si può un dire goccino, un goccino, un goccino, vabbè, e qua prosecco, siamo prosecco del Friuli, esatto. Dunque, allora dovevamo ricordare i nostri hashtag, ah, certo, no, i nostri account, @MartaCagnola, @DiBellasio e l'hashtag RadioTube. Sì, la scorsa settimana avevo detto il sabato del villaggio va in vacanza. Ci salutano da fuori. Salutiamo da fuori perché ci sono persone. Beh, non esageriamo. Vabbè, non però, esageriamo. Cioè, almeno uno ci ha salutato. Però siamo più carini. Ma non è detto. Siamo più carini. Ma comunque. Allora, noi avevamo detto, vabbè, il sabato del villaggio va in vacanza. No, ma sai, no, è stato fatto una finta perché facciamo il sabato del villaggio. Sai quando? Quando? Dopo. Dopo. Tu stai qua. Due ore. Due ore tu stai qua. Facciamo il sabato del villaggio. Sì. E quindi. Anche perché qui un filo di aria condizionata. Cioè, ma sai che si sta? Ma allora, io sono arrivata a Expo e posso dirti che oggi fa meno caldo di quello che io pensassi? Bah. Adesso, no, davvero. Tra l'altro hai davvero fatto tutto il decumano. Noi siamo qui dietro, diciamolo, no? Dietro, sì, Giappone, esatto. Se qualcuno Slovacchia volesse venirci dietro, a trovare, se qualcuno siamo, volesse venire sì, a trovare sì, noi, oppure a vedere il padiglione, esatto, Cibus, se uno fa il decumano praticamente dritto, al fondo dritto, di Corso dritto, Buenos Aires. Sai che è lungo quasi come, esatto, Corso Buenos Aires. Sulla sinistra, sulla dietro, cioè Slovacchia, arrivando dalla metropolitana, uno va dritto dritto dritto, vede Slovacchia e Giappone, gira e trova il padiglione di Cibus e trova noi come signori che ci stanno salutando. Però noi adesso andiamo in Grecia perché gli occhi dati, come si dice in giornalese, di tutto il mondo, sì, sono... sono verso la Grecia, che domani vota. Io non ho capito, pur seguendo un po' queste cose, benissimo su che cosa votano. Spero che l'abbiano capito i greci. Spero che l'abbiano capito i greci, spero che abbiano capito cosa votare sì, cosa votare no. Spero che abbiano capito, sì, che Oki vuol dire Oki. No. Occhi vuol dire e nei no vuol dire sì, sì, e non si confondano come vabbè, a volte gli italiani. Loro cioè, lo sapranno. Occhi per noi, peraltro, è un'altra cosa. No, ma sì, no, ma anche perché lo sanno, perché cioè, hanno inventato la democrazia, ragazzi. Sì, sì, sì, anche la parola. Non so se vogliamo far capire bene perché? Perché l'ha detto? E come? Allora, piazza Sintagma. Tsipras, che non si sa anche vediamo. Vabbè, vediamo all'italiana, alla greca, che cosa ha detto Alexis Tsipras. E mi sa che l'hanno proprio inventata loro, proprio la parola, eh. La parola. Senti qua, sentiamo. Senti qua. In democrazia, in elitrosi, in democrazia, in è proprio greca. Per il poco greco che posso capire dopo tanti, qualunque cosa accada lunedì dopo il liceo siamo classico già vincitori, dice. Qualsiasi. Ebbene sì, noi siamo già vincitori, Alexis Tsipras. Però il video più carino su Alexis Tsipras me l'hai segnalato tu stamattina, non l'ho ancora visto e mi è piaciuto molto. Sì, purtroppo non c'è audio, noi mostriamo no, un audio, no, un anzi video io che... direi una cosa, chiederei alla regia di cominciare a mostrare l'audio. Mostriamo noi l'audio. Noi stiamo zitti perché anche... questo è l'audio, eh. Sì. E il discorso non inizia? No, perché dunque sulla sinistra c'è Alexis Tsipras, sulla destra c'è la Merkel. E questo anche non soltanto, diciamo, come posizione. E hanno molto da dirsi? Sì. Ma proprio tanto, eh? E va avanti così per tanto? Sì, lui a un certo punto, dopo aver bevuto dell'acqua un po' frizzante, si permette. Fa anche un po' di ruttino. No, ma non credo che si possa dire. No, allora, in realtà, la verità è che questo è un montaggio parodia. Successo in rete, cliccatissimo. Praticamente hanno preso Speechless. Hanno preso l'inizio, sì, quando prima di iniziare un discorso, no? Ci si mette lì anche un po' in silenzio. Sì, si provano i microfoni. Anche noi siamo lì, facciamo cose. Ecco, solo che tutta la conferenza stampa tra il leader greco e la cancelliera tedesca è andata così, secondo dai risultati, questa parodia. Dai risultati sembrerebbe. Secondo comunque, questa parodia. La parodia segue Varoufakis un'altra parodia. Varoufakis qualcosa avrebbe detto. Salutiamo sempre. Sì, salutiamo sempre le persone che sono qui davanti allo stand di Cibus qui in Expo e siamo qui staff in diretta con... Mi sembrava. Ragazzi, ma noi stiamo vediamo, per parlare... abbiamo un altro video? No, ma se abbiamo un altro video per parlare sempre di Grecia, perché sai chi ha parlato oggi di Grecia? Sì. E in greco in greco ha parlato. No dai, io già dopo devo parlare in inglese. Peppe Grillo che ha oggi detto? Era a Milano per partecipare a una manifestazione contro il taglio di centinaia di alberi per la costruzione della linea 4 della metropolitana. Allora, manifestazione contro il taglio di alberi, e Grillo ha detto: ah, ma io sto per andare ad Atene. Sì. E Beppe Grillo l'ha detto così: io sono qua, devo prendere un aereo e devo andare in Grecia. Da Palakolobos, Galapalaga, da Carapalogo, non so se forse. Da Pacatagolobos a Caracopolos. Vado là perché anche lì si celebra qualcosa di straordinario, che è poi il principio dei comitati, è la democrazia dal basso che si fa con i bilanci partecipativi, i referendum. Là fanno un referendum e finalmente cosa deciderà o cosa non deciderà il popolo greco non è importante, l'importante è che facciano un referendum, che è veramente la via della democrazia e anche la nascita della democrazia diretta. Ma cosa ne penserà Beppe Grillo di questi alberi di Milano, secondo te? Li vuole tagliare o non li vuole tagliare per fare la metropolitana? Ma no, dice che noi la ma poi li spostano, non ho capito bene. Comunque, come funziona la verità è che alla fine cosa è venuto fuori in questo discorso? Poi tu che sei anche un po' piemontese, ma sei anche un po' affezionata alla Liguria, c'è un po' di acrimonia, cioè, un po' di accredine tra i milanesi e i genovesi, in fondo. Ah, lui dici che lo fa per quello, sì, è possibile. Senti, possibile. Senti cosa ha detto degli alberi per la linea 4 metropolitana, eccoli qua. Non c'entro, io sono anche quasi d'accordo a togliere questi alberi, perché non cosa vi servono a Milano? Cioè, nel senso, il sole, il bel tempo, gli alberi, un po' di respiro, perché tanto il sabato o il venerdì sera ve ne andate da questa città, e che sia con gli alberi o senza cosa vi interessa. Mentre a Berlino, quando vanno in vacanza i berlinesi, vanno in centro di Berlino dove c'è un parco, un lago, si sedono lì, c'è la spiaggia, si mettono lì con un computer, e stanno lì in vacanza. Il milanese va fuori. Dove va? Viene in Liguria a romperci i coglioni a noi. Allora, non nel senso, non ci rompe i coglioni, se non fosse per voi milanesi, noi avremmo ancora i prezzi del 1972. Vabbè, però ma poi, dai, scusa, lui fine. Non va mica in vacanza in Toscana, poi non ho capito, non ma so, cioè, quindi fine... non andiamo a lui mai. Non lo so, guarda, questi rapporti conflittuali. Allora, facciamo una cosa, tra sì. poco sì. io direi di festeggiare. Festeggiamo, perché oggi è il 4 è luglio. È il 4 luglio. È il National Day degli Stati Uniti qui a Expo, tra l'altro qua vicino. Sì, infatti qua vicino c'era un USA sacco di gente Pavilion, fuori. C'era USA un flash Pavilion. Mob, le cheerleader. Le ho viste, sarebbe molto carine. No, però, guarda, le ho viste su Periscope, Allora, facciamo una cosa, diamo la linea al traffico, perché traffico. Magari ci sono quelli che stanno traffico arrivando sul Decumano, in Cardo. Ecco, ci sono quelli arrivati che stanno arrivando Rosario. In macchina sì. a Expo. Nei parcheggi, quelli della sosta gratuita, ecco. sì, c'è un po' Vabbè. Di polemica. Allora, ci ritroviamo tra qualche istante sì. perché abbiamo un ospite, sono molto contenta di poter accogliere questo sì. ospite. Preparati perché dobbiamo parlare in un po' sì, di lingue di vabbè, vediamo di cosa parleremo. Non lo so, 17:15 è il momento del traffico. Ci ritroviamo tra pochissimo. YouTube. Rieccoci insieme con Radio Tube in esterna dal padiglione Cibus è Italia, Federe Alimentare, Expo Milano 2015. Noi siamo qui un po' in vetrina. Dietro così... Giappone e Slovacchia. Esatto, allora, e se arrivate alla metropolitana andate dritti quando vedete Giappone e sì. Slovacchia verso il fondo. Però il consiglio è entrate da Rosario perché che è più vicino. Così arrivate poi da dietro. Ho fatto l'altra cosa. Perché vabbè, ma vedere... perché volevo fare una passeggiata. Sì. Adesso buon io faccio... 4 luglio. Buon 4 luglio. Buon 4 luglio. Chi erano quei comici che c'era uno che faceva... la traduzione finita. Ah, sì, ma non era Aldo Giovanni e Giacomo, ah, che facevano Giacomo, la traduttrice. Sì. No, perché dopo io questa mattina ho mandato a Daniele Bellasi un WhatsApp, sì, con scritto warm up your English, sì, qualcosa ripassa il tuo inglese. Sì. Pensavo che venisse a casa mia a strozzarmi dopo. No, ho semplicemente detto quasi quasi non vengo perché meglio. Però il nostro ospite, no, abbiamo un ospite straordinario che ride, quindi capisce l'italiano, però parleremo un po' in italiano, un po' in inglese. Poi in gli English, ascoltatori capiranno, ci perdoneranno. Parleremo un po' in italiano, un po' in inglese e un po' in prosecco. Sì, perché hai visto la bottiglia di Zonin qua. Eccolo qua. Allora, abbiamo con noi, lui è il direttore creativo dello US Pavilion. È sì, oggi perché il 4 oggi luglio. È il National Day. Si festeggia, sì, si festeggia. E anche il Vice President della James Beard Foundation, e tra poco gli chiederemo anche cos'è. Si chiama Mitchell Davis. Buonasera. Buonasera. Però in... Ci spieghiamo perché ogni padiglione, ogni nazione a Expo ha un suo National Day. Beh, e oggi, ovviamente, beh, essendo il 4 luglio, festa proprio dell'indipendenza, è il National Day degli Stati Uniti. Volevo anche dire che on Twitter, che su Twitter il suo account è Kitchen Sense. Sì, sono io. Sì, Kitchen That's Sense. Me. Perché That's è un esperto. Mi hanno detto, somebody told me, che lei è il più grande esperto di cucina americana. No, ci sono tanti, io sono uno di tantissimi esperti di cucina italiana, in America. In America. Sì. Perché, allora, lei lo sa che gli italiani dicono vabbè, in America non c'è una cucina nazionale. Sì, ma... io lo so. Già gli occhi al cielo, sì, perché penso che se lo sente e sempre. E perché il tema del nostro padiglione è American Food 2.0, che vuole dire che c'è un cibo americano che tu non conosci, che tutti non conoscono. We want to show the world that there are hot dogs and hamburgers. Ah certo, tutti conosciamo gli, sì, hot dog e gli hamburger, certo. But not everybody knows the great chefs, the great wines, the great products, the great farmers, the great research and innovation in food that is, yeah, also part of American food. Grandi chef, grandi vini, grandi coltivatori, sì, innovazione e da sostenibility. Esatto. It was one of the topics. Yes. È stato uno dei grandi temi, the la sostenibilità. In your pavilion, maybe. Yes, it's sustainability, absolutamente. E oggi abbiamo the Secretary Vilsack, che è the Secretary of Agriculture, il ministro dell'agricoltura. Sì. E poi c'è stato, vorrei subito farvelo, mostrarvelo alla radio, perché c'è stato un bellissimo saluto del presidente Obama. Ha fatto, sì, un saluto in video, e quindi io vorrei chiedere alla regia di mandare subito intanto le congratulazioni di Barack Obama. Io sono molto fiera da milanese, sì, di queste congratulazioni, me le prendo un po' anch'io. Eccolo qua il presidente Barack Obama. Obama è molto appassionato di questo tema del cibo, del sviluppo. Development using agriculture to help develop countries around the world. Usando l'agricoltura per aiutare lo sviluppo dei paesi in tutto il mondo. Ma appunto abbiamo il presidente Barack Obama. Sentiamo le congratulazioni di Obama. Ciao and congratulations to the people of Italy and Milan on hosting the 2015 World Expo. Welcome to the USA Pavilion, where we're proud to showcase contributions and innovations America's making to a central part of daily life all over the world. The food we eat. Allora, i contributi all'innovazione. E poi il presidente Obama ha spiegato anche qual è lo spirito del padiglione americano. Noi abbiamo l'audio, l'abbiamo doppiato ovviamente in italiano. Gli ascoltatori sorrideranno perché ho chiesto a Enrico Pagliarini di farmi da attore, perché c'era in emiliano, Obama in emiliano. No, l'ho fatto perché c'era lui in redazione questa mattina, no, quindi ho chiesto a Enrico Pagliarini di doppiare Barack Obama. Abbiamo usato la sua voce, però questo è il saluto e il video che oggi è stato trasmesso nel padiglione americano del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Eccolo. By the year 2050, the world's population is projected to surpass 9 billion people. Entro il 2050 la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi di persone. Tutti noi, tutti i 9 miliardi, ognuno di noi ha diritto di mettere in tavola cibo buono, sicuro e sano. Mano a mano che la popolazione cresce, dobbiamo lavorare insieme per creare un sistema alimentare sostenibile e per migliorare la salute delle persone in tutto il mondo. Questa è una delle sfide più importanti del nostro tempo, ed è per questo che negli Stati Uniti abbiamo deciso di rendere prioritario l'incremento della sicurezza alimentare dappertutto. Ciò vuole dire migliorare l'agricoltura, promuovere abitudini alimentari sane e combattere i cambiamenti climatici. Solo così le comunità di tutto il mondo potranno sollevarsi dalla povertà. Working to create. Benvenuti nel futuro che ci stiamo impegnando a creare. Unitevi a noi per costruire un mondo in cui tutti noi, tutti i 9 miliardi, avremo la possibilità di prosperare. Beh, questo è proprio il senso, era anche il senso del dover costruire il padiglione americano. Mm-hmm. It was the mean that you had to have in mind to build the pavilion. Absolutely. We wanted to present all of the different ideas in America about how the future will be, about how we can make it together, about what each of us can do, the responsibility we have as individuals, but also as participants in the global community that are represented here at Expo. And today we celebrated with everybody all of these ideas on our national day. Hanno celebrato con tutti le idee in questa giornata nazionale e delle diverse idee di come potrà essere il futuro, di quello che dovrà fare ognuno di noi e delle responsabilità che ognuno di noi ha in questo mondo globale. Il padiglione americano è un granaio aperto, sono open bar. Yes. Sì. Again, open, thousands of people come a day. We expect 35,000 people today to come through the pavilion. 35,000 persone oggi aspettate. And you come through at your own pace. Some pavilions are very directed. Ours, mm-hmm. we want you to spend 5 minutes if you want, or an hour if you want. But the idea was this openness was also about our openness to be here, to engage with everybody, to talk about all of these issues. As Obama says, it's not going to be one country that has an answer for these challenges. It's going to be all of the countries. Non c'è un paese che ha una risposta giusta. Sì. Ogni paese ha la sua risposta. E la cosa bella di questo padiglione, come diceva Mitchell Davis, che ognuno può andare al suo ritmo. Non è una visita che ha un percorso obbligato. Ci puoi stare 5 minuti, ci puoi stare un'ora. Appunto, è l'apertura, che è un po' l'apertura anche mentale. Esatto. di comportamento degli Stati Uniti. Sì, la cosa bella del padiglione degli Stati Uniti è proprio questa, che è molto aperto. Cioè si entra facilmente, si gira facilmente, ci sono molte storie anche di aziende, un padiglione che racconta l'innovazione anche dal punto di vista delle aziende. Lei parlava del futuro, e per il futuro quale dovrebbe essere l'eredità di un evento come questo? What the legacy of a big event like Expo 2050 for the future? I think it is to make people think about what they're doing today. For us, you know, the question of what will we eat in the future is about what did I have for breakfast or what will I have for lunch. And I think that if everyone who comes through for just 5 minutes stops and thinks for a moment about that question, what are we doing, what do we choose, what do we eat, then we will have started a legacy. But I mean, the real things that we want to leave, in addition to some beautiful ideas, are seeds, let's say, of innovation. We're working on an accelerator project with startup tech companies that will stay in Milan. It's just starting actually next week. We're launching it. We're working on some cultural activities that we hope will generate some responsibility in the entertainment industry while we're here. I think it's not just the United States, but all of Expo is a rich opportunity. And I think it's also everyone's responsibility to do something with this Expo. It's not Expo's responsibility, it's everyone here, all the countries, all the people, the radio stations. Hey, let's band together, let's make something happen now that we've been given this opportunity, or we created this opportunity. It's very exciting. I don't know what the legacy will be, but we're trying hard to leave an important one. Beh, diceva che non è chiaro, non possiamo sapere esattamente quale sarà l'eredità, ma la cosa importante è pensare oggi cosa dobbiamo fare, perché noi siamo abituati a pensare a cosa fare, a cosa mangiare per colazione, cosa mangiare per pranzo. Invece già solo passare 5 minuti in un padiglione che ti permetta di pensare invece all'importanza di quello che scegliamo oggi o di quello che faremo oggi è già un punto di partenza per creare un'eredità. Noi piantiamo dei semi, in particolare ha citato l'innovazione e anche degli accelerator, degli acceleratori di innovazione. In particolare diceva, se non ho capito male, che state per lanciare la prossima settimana una compagnia tecnologica proprio qui a Milano. Non è una compagnia, ma è un accelerator. 10 compagnie, 10 nuove compagnia d'Italia e anche di America, e ci sono cominciare di to exploit what's happening at Expo, the experts, everyone coming here are going to address them, meet with them, talk to them to help accelerate their success in business and in solving some of these. E saranno 10 si incontrano, they meet each other. They stay here for a month, okay. They're coming to Italy. E si incontreranno è molto bello. Tra l'altro poi ha sottolineato Mitchell Davis l'importanza della responsabilità dell'industria dei media, dell'industria della comunicazione, dell'industria dell'entertainment, che insomma ha una responsabilità nel formare la mentalità, e anche questo dovrà essere una tua, capito? Mia. Stava parlando a te. mia che è tra l'altro, yes. Rido perché mi trasformo subito nel non mio so, passato. Hai preso degli appunti terribili, sì, perché dove non si capisce niente, però. Ma sai che gli interpreti prendono gli appunti terribili? Io non ho mai fatto l'interprete, perché ho scelto un'altra strada, però insomma è l'unico modo per ricordarsi. Ma Mitchell Davis le piacciono gli altri padiglioni? Facciamo parlare anche un po' degli altri. Sì, ma non c'è tanto tempo per dire too much work in the padiglione USA. What I love, because we've been so involved in making ours, is to see how people took the same ideas and made them theirs. So what I find so fun about the Expo is it's not like Disney World. People sometimes compare it to Disney World. Non except, è come Disney. No, World, in no. Disney World, one company decides what it's going to look like. Here, every country decides what they want to present, what personality, and they can't help but be themselves, and that's what makes it fun. So, perché a Disney World una sola azienda decide tutto, qui invece ogni paese ha portato avanti le sue idee, ed è bello vedere come magari idee simili vengono portate avanti dai paesi in modo molto diverso. Per esempio, il grano è centrale in alcuni padiglioni, molti padiglioni, e nel caso degli Stati Uniti è stupendo perché c'è questo campo di grano bellissimo. Poi sai che il legno è stato preso a Coney Island, quello della passerella. Dall'alto del padiglione degli Stati Uniti c'è una vista stupenda, peraltro. Bello, molto poi bello. Oggi c'era un sacco di persone perché c'erano molte feste. Anzi, tra poco chiediamo a Michelle Davis, perché ci sarà qualcuno che arriva stasera. Ci sarà un sacco di gente che arriva stasera e secondo me tutti quelli che arrivano stasera entrano diretti e vanno a fare un salto. Quindi tra poco gli chiediamo cosa succede. Lo chiediamo tra poco perché sono, guarda, le 17:29 e quindi direi piccola che è di fare una piccolissima pausa. Prosecco? No, aspetta, perché qua se no andiamo avanti troppo, dopo parliamo troppo bene l'inglese. Sì. dopo il prosecco. Dopo il prosecco. Ci ritroviamo tra pochissimo, una brevissima pausa. Tra poco. Piccola pausa. YouTube. Rieccoci insieme sempre con Radio Tube. Siamo in diretta in realtà fino alle 19, perché poi avremo un'ora di speciale Sabato del Villaggio. Daniele Bellasio e io questa volta mi entri anche dopo le 19 hai qualcosa da fare? Questa sera vado al concerto di Tiziano Ferro. Sì, si può dire, scusa, è una cosa bella che succede a Milano. Quanti ne fa? A Milano 2. Bello. Ha già cominciato. Allora, Tiziano, però noi siamo qui per festeggiare il 4 luglio, ragazzi. Io stamattina mi sono svegliata. 39esima festa dell'indipendenza. Questa mattina mi sono svegliata e ho aperto gli occhi e ho detto 4 luglio festa nazionale. Il mio primo pensiero è stato 4 luglio festa nazionale. Pensa un po'. Io stavo controllando che sia la 239esima, mi pare adesso, di sì. È vero, sì, lo chiediamo al nostro ospite. Abbiamo ancora con noi Mitchell Davis, che è il direttore creativo del padiglione americano qui a Expo. Oggi è successo di tutto e succederà ancora di tutto fino a questa sera. Io ero lì e che mi divertivo a guardare i Periscope che c'erano un po' in rete, che un po' avete twittato anche voi, un po' ha twittato l'account di Expo. Io comincerei a sentire un po' di audio di quello che è successo questa mattina. Questo è un periscope in realtà delle prove della banda, e la banda ci è piaciuta molto, ma io ho anche un secondo periscope che ho visto e che purtroppo io alla radio vi posso mostrare solo in audio. Il video purtroppo non posso mostrarlo a Daniele Bellasio, che so gradirebbe moltissimo. Ma io un po' l'ho visto comunque. Un po' l'hai visto, un po' hai cercato, un po' hai guardato. Ti sei portato avanti, vabbè. Eccolo qua il secondo periscope che volevo mostrarvi di oggi. Thank you. che consigliarvi di andarvelo a cercare, perché c'erano le cheerleaders, Mitch, beh, sì, straordinarie, bellissime, bravissime. The University of Southern California and the Trojan Marching Band, very famous marching band Trojan in college. Marching band. Yes. Sì, sì, sì. From the University of Southern California, they have performed at every expo for the last 125 years. Wow. 125 anni in ogni expo loro sì. C'erano e si sono esibiti. The Trojans were coming to Expo Milano before America had agreed to come to Expo Milano. Beh, arrivavano ancora prima che l'America sì. fosse avesse un suo paese negli expo, straordinario. Oggi avete fatto tantissime celebrazioni e si andrà avanti sì. ancora anche questa sera. Cosa succederà? What's going to happen today? Today, tonight we have a blues band on our roof called the Nasty Grannies who are going to be playing. Nasty Grannies, yes. Le nonne cattive. Esatto. Ai, ai, ai. Una blues band sul yeah. tetto della yeah. diceva prima cocktails and dancing the night away on the rooftop as the sun beh. Sets over Expo. And tonight actually in our restaurant in town we are running a restaurant, the James Beard American Restaurant, where we're bringing chefs from all over America to cook. But tonight Massimo Bottura is cooking his version of American food. Ah beh, straordinario, yes. Una versione rivisitata del cibo americano da Massimo Bottura nel ristorante che appunto in città, a Milano, città, state curando con la James Beard Foundation. Galleria Vittorio Emanuele II. Ah, perfetto. Sì. E appunto, io dicevo, presentandola, che lei è il vicepresidente della James Beard Foundation. Sì. Di cosa si tratta? It is a gastronomic organization, a cultural organization, where we look at food. We try to have people look at food, focus on food as an important cultural art form. So we have a house in New York City where James Beard, who was a great American chef and cook and author and teacher about food, lived. And we invite chefs to cook in his home almost every night of the week, every day of the year. Just like we're doing here in Milan, we've made a little outpost of the restaurant here, inviting chefs to come perform. Mm-hmm. Like as though they were invited to sing at La Scala, but the chefs come cook at the James Beard Foundation. È una organizzazione culturale e gastronomica che aiuta le persone a vedere il cibo come un elemento di cultura, come un elemento di arte e di cultura, e hanno una casa a New York City nella quale invitano dei cuochi, degli chef a cucinare tutte le sere, un po' come se fossero cantanti che cantano alla Scala. Sono delle vere esatto. esibizioni di cucina. James Beard era un grandissimo cuoco, un grandissimo interprete della cucina, fantastico. And we also, as an organization, we also do things like conferences on sustainability and trying to promote all sorts of food system change for the future. So this particular project and the Beard Foundation is part of the team that put on the American Pavilion was ideal for us to express in a global way everything we do in America. Certo, il padiglione americano era poi comunque un modo per esprimere la stessa idea che voi portate avanti in America, cioè fanno conferenze sulla sostenibilità, sul futuro proprio del cibo, del modo di intendere il cibo. Che poi è molto bello quando i padiglioni pensano di organizzare delle cose anche in città, perché una delle critiche che un po' è stata fatta è che certo. troppo spesso magari è tutto accaduto qui a Expo. Sì, invece quando i padiglioni come gli Stati Uniti hanno deciso di fare, fanno degli eventi anche in città, si rende anche, come dire, più partecipe, sai, insomma, i commercianti hanno detto qua vanno tutti a Expo, però noi pensavamo che succedesse qualcosa di più anche in città, quindi bello che il padiglione degli Stati Uniti grazie. Abbia deciso. For us we really wanted to come to Milan, not just to Expo but to Italy, to if we were coming big. So. Ah, beh, certo, è giusto, negli americani arrivano vengono alla grande, mica vengono a fare una robetta. Senti, ma ci così. Facciamo spiegare un po' il significato della festa del 4 luglio? È importante per gli americani il 4 luglio. It is the very meaning. Important. The meaning, it is the day we signed our Declaration of Independence from the British, but it's the birthday of our country. And everywhere today that you go, big cities, small towns, there are celebrations. There's a very funny radio show in America by Garrison Keillor called Prairie Home Companion, and he talks about the parade in small town USA where half the people watch and half the people parade down the street, and then they switch. The other half watch and the other parade because everyone wants to be on the parade for July 4th. Bellissimo. Allora, ovviamente il significato è importante perché è il giorno della dichiarazione di indipendenza dagli inglesi, quindi è la nascita degli Stati Uniti, e si festeggia in grande città e in piccoli centri. E c'è un show radiofonico, cavoli, dovremmo farlo anche noi, Prairie Home Companion, che segue tutte le parate anche nelle piccole città. Ma sì, cosa succede in una piccola parata, città? Cosa succede di una piccola città, che siccome sono pochi, allora si dividono a metà. Sì. Metà fanno la parata e gli altri, l'altra metà guardano, poi si scambiano. Esatto. Quelli che esatto. guardavano fanno la para, e eh sì, perché se si è pochi, come si però fa? Ovunque, però ovunque, però ovunque, bello, perché poi è simbolo di unità in tutto il paese. Molto bello. Michel, ma cosa bisogna mangiare per il 4 luglio? Questa è una bella domanda. Dipende, hamburgers, hot dogs, American food 1.0. Ah, quello classico, sì, che piace a tutti, sì, hamburger. But always a barbecue, a grill, potato salad and beer and sodas and fireworks. It's the same everywhere. Fantastico, beh, barbecue, grill. Beh, lei sa che per esempio Michelle Obama ha avuto un successo incredibile quando è venuta qui, sì, in Italia. Secondo lei perché ha questa empatia così forte in Italia? Io non lo so, in America anche. Ah, in America. I think she's a symbol of American power and beauty together. I think she is she's just a huge star. I don't know, bigger, almost bigger than her husband in some places, because she doesn't have to be controversial. She's not political. She's not elected. Well, we'll see what happens with Hillary Clinton, who may be elected from one role to the other. But Michelle Obama, especially in food, especially in family, I think she just stands for a sort of purity of American values. And so she's a hero. Also fashion, very important in the fashion world. Verissimo, yes. Verissimo. Molto importante per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda l'immagine della famiglia, anche per quanto riguarda la moda, perché effettivamente lei è sempre super stylish ed è un simbolo di potere, di bellezza, una grandissima star, forse ancora più grande rispetto al marito Barack Obama. Anche perché lei, non essendo stata eletta, non avendo un ruolo politico, non ha un ruolo che può essere controverso, lei può dire esattamente quello, sì, che pensa, anche se e vedremo, cibo, vedremo, sì, vedremo che cosa sarà. Volevi per Hillary, volevi sottolineare l'allusione, sono certo. Qualche aspetto io, eh. And I should say I know she had an amazing time in her trip in Italy. Ah, and she, they didn't want to leave. Ah, non voleva andare via, speriamo che tu, ma anche noi non volevamo se ne andare. Invitiamo ancora, siamo, sì, cioè, fino, no, però fino a parte gli scherzi, sul cibo ha costruito gran parte della sua attività, anche, sì, per certi versi politica, sul messaggio che vuole, sì, infatti, dare è politica, sì, è un messaggio forte, certo, quello anche rivolto l'orto agli americani, in the White House, yeah, l'orto White House. Noi abbiamo anche questi semi di l'orto, the same plants growing on our wall as are in the White House garden. Straordinario, yes. Quindi se uno va a vedere l'orto del padiglione, comunque, comunque come se vedesse un po' di Casa Bianca, Casa Bianca. Un po' di Casa Bianca. Che meraviglia, mi sono divertita molto a festeggiare. Grazie di essere stato qui. Grazie a lei. Buon adesso 4 ho, di ho voglia di fare una grigliata per il 4 di luglio. Andiamo a fare il food truck, sono qui. Esatto, infatti già siamo pronti per dopo la fine della puntata. Dobbiamo ringraziare tantissimo Michel Davis. Allora, chiocciola Kitchen Sense, sì, l'ho anche twittato, che così lo troviamo anche su Twitter. Grazie per essere, grazie, stato con noi. Grazie a lei. E complimenti per il padiglione degli Stati Uniti, perché è veramente pieno di significato. Grazie, davvero, tanto, grazie mille. Buona festa. Sì, noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché c'è ancora il traffico di Radio Tube, del traffico del decumano. A tra poco. Radio Tube. Rieccoci insieme per l'ultimo spicchio di questo Radio Tube qui da Cibus e Italia in Expo. Ma dopo abbiamo un'ora di sabato del villaggio, la prima volta che Daniele Bellasio conduce. Ma io conduce... sono il co-pro, sì, del, allora facciamo una cosa, è un provino, se poi vai bene magari l'anno prossimo ti tengo tutto il pomeriggio con me. Non ci posso, è un talent quasi. Sì, è un provino, vediamo se sei abbastanza bravo, magari l'anno prossimo ti faccio fare tutto il sabato del villaggio, come vedremo. Non esageriamo. Che sabati. Allora, abbiamo parlato di 4 luglio. Di 4 luglio, tanto di Expo. Abbiamo parlato di Expo. Sì. Adesso torniamo in Italia. Sì, perché questa settimana per Expo è stata una settimana molto importante. Molto bello, sì. C'erano, si vedevano sotto ai, come dire, gli standard di quasi tutti i paesi. Quasi tutti i paesi. Invito a guardare quelli che non avevano. C'era lo standard di... Di esattamente il nome, che io mi confondo. Allora, Women for Expo, una bellissima iniziativa che ha sottolineato l'importanza delle donne per quanto riguarda i temi dell'alimentazione, della sostenibilità, dello sviluppo. Dell'economia. Questa sera, beh, certo, questa sera ci sarà una reading marathon, una maratona di lettura. Letteraria. The Novel of the World. Ci saranno i testi di Simone Taniello Orbi, Lilia Bicek, poi Anilde Ibrahimi, Dacia Maraini, Clara Sanchez, e le voci di Camila Rasnovic, la voce di soprattutto prodotto della nostra ospite, che abbiamo già al telefono con noi, perché sta arrivando a Expo, ma noi siamo riusciti a intercettarla al volo. O magari sta guardando qualche padiglione. Non vogliamo sapere dov'è in questo momento. Cristiana, ciao Cristiana Capotondi, buonasera Cristiana. Ciao, buonasera, ciao. Eccola qua. Ciao. Allora, sto preparando per arrivare ad Expo. Brava Cristiana. Calda, ma non vedo l'ora di arrivare. Guarda, allora, voi sta migliorando, voi sarete all'Expo Center alle 21. Io spero che per le 21, dai, un po' più di freschino, Cristiana. E ci sarà tantissima gente, perché è un giorno di festa stupendo, abbiamo parlato il 4 di luglio, quindi sarà Cristiana, bellissimo. È una bella iniziativa di responsabilità, di impegno, bello, mi piace molto questa cosa. Com'è farne parte? Ma guarda, è intanto una bella occasione per conoscere il mondo attraverso gli occhi delle donne in qualche modo, e quindi le realtà differenti. Women for Expo riunisce veramente donne da tutto il mondo, e questa raccolta di racconti che vede 100 appunto autrici, scritto in 28 lingue diverse, veramente dà l'idea di un'unità nonostante le culture. Credo che oggi ce ne sia bisogno, perché è sempre più attuale la necessità, secondo me, di trovare un punto di comunicazione, di unione tra le diverse culture, le diverse radici, le diverse visioni del mondo. In più, farlo attorno a dei temi importanti come la nutrizione, il cibo, avere un comportamento responsabile abitando questa terra, credo che sia molto importante, ed è molto bello farne parte. Cristiana, cosa leggerai? Perché so che avete scelto poi alla fine in realtà i racconti che vi appartenevano di più. Sì, in qualche modo sì, e dall'altro lato però siamo state anche un po' portate dalla presenza dall'assenza delle scrittrici, perché tu immagina come può essere difficile mettere insieme 100 diverse scrittrici in uno stesso giorno, quindi io in qualche modo sopperisco all'assenza di una di queste, che è Elizabeth Struth, che ha scritto un bellissimo racconto e che in qualche modo ha a che fare con la poesia, con se vuoi la visione diversa del mondo e con anche il rapporto tra gli adulti e i bambini. E, sono delle tematiche enormi, perché in qualche modo poi ognuno sulla poesia, sulla propria infanzia, magari ha dei ricordi diversi da quelli della scrittrice, che però secondo me hanno qualcosa in comune a tutti, è un po' successo a tutti avere nei confronti degli adulti magari una visione diversa, sentirci così distanti dalle loro considerazioni quando eravamo piccoli, e quindi trovo che al di là del fatto che appunto tutti gli scrittori siano di nazionalità diverse, c'è una cosa che li unisce tutti, che ci unisce tutti. Cristiana, tu hai citato i bambini, e quindi vorrei chiederti una cosa rispetto a un bellissimo corto che tu hai girato, che hai girato proprio come regista poco tempo fa. Mandiamo un brevissimo audio Cercatelo, facciamo solo proprio bellissimo. Una piccola suggestione audio, perché in radio non possiamo fare altro, ma in rete si trova, eccolo qua. Io, Maria, accolgo te, Gianni, come mio sposo, prometto di esserti fedele sempre. Maria, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ma allora ancora niente figli? Ancora niente figli? Ancora niente figli? Ancora niente figli? Ma allora ancora niente figli? E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà. Allora, metti le manine, bravo, così. Vabbè, sporcati anche la maglietta. Grazie. E poi si mangia. E vai, si mangia. La pasta fare così? No, lo fanno perché ne hanno bisogno, per il lungo viaggio che devono fare. Chi è quel signore vestito di bianco? E questo è il matrimonio. Partire e camminare. È la persona che ci ha fatto incontrare. La poltrona del Papa, Cristiana. Ma la scena è finale un'altra di questo corto, andate a vederlo, è bellissima, perché è un bellissimo corto, una che parla di amore, di adozione, di maternità, e il anche matrimonio. Qui ancora di donne. Io sono rimasta molto incuriosita da questa tua scelta e voglio capire se è una porta che stai aprendo sul tuo futuro, non per quanto riguarda la vita e l'adozione, no, per quanto riguarda la regia e questo lato creativo. Guarda, devo dire che è un'occasione quella di appunto aver parlato di adozione internazionale, che mi ha dato anche l'opportunità di ripensare al concetto di maternità, che per noi è molto fondato sulla biologia in qualche modo. E invece no, credo che in fondo dopo questa esperienza credo di poter dire che la maternità è un modo di amare e da questo punto di vista siamo tutti padri, siamo tutti madri, siamo tutti genitori in qualche modo, se riusciamo ad amare in un certo modo. Quindi a livello personale è stata un'esperienza meravigliosa, a livello professionale ancora di più. Quindi sì, spero di poter fare delle altre esperienze. In effetti, da un punto di vista documentaristico, ho appena finito di girare un documentario che fa parte di una collana di 6 documentari che raccontano Milano, che si chiamerà Milano 2015, che è prodotto da Lumière Film, e gli altri registi sono Silvio Soldini, Giorgio Diritti, Walter Veltroni, Roberto Bolle, Elio di Elio le storie tese. Ognuno ha preso un pezzettino di Milano. Io ho preso quello che quando sono arrivata a Milano per la prima volta ho chiesto ad un tassista: mi porta a vedere la sede del Corriere della Sera? E quindi ho voluto ma come, non del Sole 24, ma la prossima volta, però la prossima volta ti portiamo anche al volta, Sole, sì, sì, la invitiamo, deve dire, sì, mi porti, la portiamo anche da noi, la sede di Radio 24. Esatto, cioè. Non è perché il Sole è veramente molto milanese, anche le torri sono in qualche modo più almeno per noi che sul mondo della finanza, quando si è piccoli, non abbiamo forse da Firenze in giù, non abbiamo proprio conoscenza, cognizione. Però adesso ho visitato anche il Sole, quindi brava. Cristiano, posso chiedere una cosa? No, dobbiamo essere rapidissimi perché non c'è tempo. Ma quale curiosità hai di più venendo a Expo? Velocissima, perché guarda, dopo parliamo devo dire un'ora che ho visto il Padiglione Italia quando ancora non era finito. Quindi voglio tornare a visitare il Padiglione Italia, ma trovo che il Padiglione Zero sia il Padiglione Italia per eccellenza, questo lo voglio dire, perché è fatto da tantissimi artigiani che lavorano per il cinema, e nel mondo del cinema c'è stato questo rilancio tra di noi per andare a vedere il Padiglione, per vedere che cosa, consentitemi di dire, i nostri artigiani hanno combinato e hanno fatto un lavoro meraviglioso. Bene, meraviglia, bravo, grazie Cristiana Capotondi. Ciao. Questa sera alle 21 all'Expo Center.